was just sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ben trovati alla seconda stagione di Soul Time qui sulle frequenze di Radio Wombat. Iniziamo questa seconda stagione da un po' di dischi e di ritrovamenti successivi a questa estate in cui Soul Time non è andata in onda per un paio di mesi. Il formato è più o meno quello della scorsa stagione, cercherò di parlare meno possibile, darò giusto dei cenni storici e delle brevi introduzioni ai brani che ci andremo ad ascoltare e ascolteremo appunto tanto soul con un occhio di riguardo al Northern Soul. Una stampa molto molto interessante riscovata quest'estate, una stampa rilasciata nel 2012 dalla Outside, ha tirato fuori un pezzo degli anni 60 di Billy Hambrick. Billy Hambrick, in realtà, oltre al fatto che fosse di New York, si sa veramente molto molto poco. Ha iniziato a incidere agli inizi degli anni 60. Il suo primo disco si trova su etichetta Dakan e si intitola Just Have a Little Faith. Però appunto nel 2012, con questa ristampa di questo pezzo inciso da Billy Hambrick nel 1965, è venuto fuori un gran pezzo, quindi vi propongo Billy Hambrick con questo pezzo che si intitola Flaming Mammy. I was down at the Devil's Den last night, yeah. Having a ball of doing them up a ride, yeah. Listen, in walk Mamie, flaming Mamie. Hello, Mamie. Ooh, hey, hey, hey, pretty baby. Soul on fire, yeah. Maybe you're my heart desire, yeah. If you be my baby, I'll be true. Let me tell you what I'm gonna do. Oh, settle down. Just maybe. I'ma get a job. Just maybe. I'ma quit tomorrow. Just maybe. Just for maybe. Just maybe. I'ma buy a Volkswagen, not a Cadillac. I'm even gonna take this shit off of my back. Look at here. Oh my goodness, it bless my soul. Ooh, I love old Mamie like a ton of gold. Hey, just for Mamie, flaming Mamie. Hello, Mamie. Ooh, hey, hey, hey, pretty baby. Mamie, you're the one. I want you to listen to me, baby. Baby, you know that I need you, baby. Baby, I can't do without you. Baby, no doubt about it. Baby, oh, baby, I gotta have you. Gotta have you. I said I gotta have you. E questo era Billy Hambrick con Flaming Mamie sul lato B di questa stampa del 2012 della britannica Outside. Sull'altro lato, precisamente sul lato A, sempre di questo 7 pollici, di questo 45 giri, troviamo un pezzo del 1965, inciso originariamente per la 40 Records. Quindi vi propongo questo bellissimo strumentale degli Upsetters che si intitola Jaywalking. Con Jaywalking. Per il prossimo pezzo vi scusate, microfono fischiante, abbassiamo un po' il volume. Per il prossimo pezzo vi consiglio, come io ho abbassato il volume del microfono, a voi di alzare il volume del vostro impianto stereo, perché il prossimo pezzo è assolutamente un capolavoro. Il cantante in questione è Charles Sheffield, un cantante R&B di Lake Charles, nei pressi di Los Angeles, noto principalmente per questo pezzone assoluto, inciso per la Excello Records nel 1961. Lascio parlare la musica, ci ascoltiamo It's Your Woodworking, Charles Sheffield. Sour, my soul tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble, and pain. Questo era Charles Sheffield con questo grandissimo pezzo. Proseguiamo la nostra selezione musicale per questa prima puntata della stagione di Soul Time con i The Masquerades. I Masquerades sono stati probabilmente uno dei gruppi più longevi della storia della musica soul, anche se in realtà sulle loro origini non si sa moltissimo. Secondo una recente ricerca dello storico e collezionista di musica soul Greg Tormo, le origini di questo gruppo vanno fatte risalire a Dallas, nel Texas, intorno al 1958, in cui si formò questo primo nucleo dei The Masquerades, che in realtà si chiamava The Stairs, le scale, formato da due studenti, Charles Moore lead vocals e Robert Tex Wrightsville, che era il primo tenore. Poi nel 1959 si aggiunsero altri componenti, di cui non farò l'elenco perché sennò vi tengo un quarto d'ora. Si aggiunsero altri componenti e iniziarono ad esibirsi. Piccolo aneddoto, dopo aver inciso nel 1965 il brano Talk About a Woman per la label di Houston Soul Town, i Masquerades si incamminarono verso Detroit per un'audizione per la Motown Records, ma furono rifiutati perché gli venne detto che il loro stile era troppo simile a quello dei Temptation. Ma i Masquerades non si abbatterono e proseguirono la loro carriera per tantissimi anni e incisero un sacco di brani bellissimi. Quello che vi propongo quest'oggi si intitola Do You Love Me Baby, The Masquerades. Ah! Masquerades con Do You Love Me. Direi quindi di proseguire senza indugi la selezione di questa puntata e proseguirei con un altro pezzo, quello di Billy Thompson, pezzo stampato su etichetta statunitense WAND nel 1966. Quindi vi propongo Black Eyed Girl di Billy Thompson. My path, yeah. And to get her to notice me, I've got to fetch, yeah. Before she slips away, I better make my bed, because the beautiful black eyed girl might slip away. Black-Eyed Girl di Billy Thompson. Quindi proseguiamo con Barrett Strong. Barrett Strong è un nome fondamentale per la musica soul, nato a West Point nel febbraio del 1941 ed è un cantautore e scrittore statunitense, attivissimo fin da giovane come cantautore. È stato il primo artista a registrare una hit per la Motown, quindi non certo una figura di secondo piano. La hit in questione si tratta, l'abbiamo già ascoltata nella stagione passata, di Money, That's That What I Want. Il brano fu inciso da Strong nel 1959 ed è stato scritto da Barry Gordy e Jenny Bradford, e negli anni seguenti è stato reinterpretato da tantissimi artisti anche di al di fuori della scena soul. Si basta pensare ai Doors o ai Beatles o ai Rolling Stone, quindi un brano di successo infinito. Ha lavorato, oltre che come cantante, tantissimo come appunto paroliere, come scrittore, sempre per la Motown Records, spessissimo in collaborazione con il produttore Norman Whitfield. Come paroliere Strong ha scritto tantissimi brani per i Temptation, ma anche per Gladys Knight, Edwin Starrs, Marvin Gaye e tanti tanti altri. Negli anni 70 ha anche collaborato con la Capitol Records. Ora vi propongo questo brano bellissimo di Barrett Strong, anche un po' melanconico, ma che secondo me merita davvero tantissimo, e si intitola Misery. Misery, oh, misery, misery. Strong con Misery, grandissimo, grandissimo brano. Quindi passiamo da un brano un pochino malinconico, ma come ho annunciato prima di suonarlo, sicuramente molto molto valido. Passiamo a un brano tutt'altro che malinconico, un brano bellissimo di Tiny Tops o Tiny Topsy, che dir si voglia, che si intitola Just a Little Bit. Due veloci cenni storici sulla figura di Tiny Tops, che è stato un cantante americano di R&B, attivo, nato a Chicago e attivo in gioventù proprio nella città dell'Illinois. Ha iniziato la sua carriera come cantante già nella metà degli anni 40 in un gruppo di jazz e blues di Al Smith, proprio appunto nella sua città natale. Poi ha iniziato subito a lavorare per le etichette, come Chance, Parrot e BJ, già nel periodo del 1952 e il 1959, mentre la sua prima registrazione nota di discreto successo risale al 1957 a Cincinnati per la Federal Records con un brano che si intitola How Sucks Baby. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano di Tiny Topsy, che si intitola Just a Little Bit. Anche per questo posso consigliarvi, nei limiti della decenza e della convivenza, di alzare il volume, perché è un brano che merita davvero tantissimo. Tiny Topsy, Just a Little Bit. Well, I don't want much. Voce straordinaria quella di Tiny Topsy. Abbiamo ascoltato Just a Little Bit, brano che fu un successo quando fu inciso nel 1959 per l'etichetta Federal Records. Quindi proseguiamo, vi introduco il prossimo brano, il prossimo artista, che è Marv Johnson. Anche lui, prima si parlava del primo ad aver inciso un brano di grande successo, Barrett Strong. Quindi torniamo sempre a dei primi, a degli antesignani, parlando di Marv Johnson. Marv Johnson è nato nel 1938 ed è stato un cantante americano di musica R&B e soul, conosciuto, torniamo ai primi, agli antesignani, conosciuto soprattutto per essere stato il primo ad aver inciso per la Tamla Records, che poi diventò la Motown Records. Johnson nacque a Detroit, nel Michigan, appunto nel 1938, e la sua carriera iniziò come cantante in un gruppo di doo-wop conosciuto come i The Serenaders verso la metà degli anni 50. Il suo grande talento non era soltanto come cantante, ma anche come scrittore e soprattutto pianista. Infatti fu scoperto principalmente come pianista mentre suonava durante un carnevale da un certo Barry Gordon. Quindi ci ascoltiamo questo brano di Marv Johnson, che si intitola All the Love I've Got, Marv Johnson. Won't you please, please be true? And darling, if you do, I'm gonna give you all the love I've got. All the love I've got. Yeah, yeah, yeah, yeah. Treat me sweet, treat me kind, and say you'll be only mine. Just come. I'm gonna give you all the love I've got. All the love I've got. All the love I've got. Yeah, yeah, yeah, yeah. All the love I've got. Teach me right when I'm wrong. Be my strength and make me strong. Stay with me when friends are few. And darling, if you do, I'm gonna give you all the love I've got. I'm gonna give you all the love I've got. Yeah, baby, let me give you my love. All the love I've got di Marv Johnson. Il prossimo artista che ci andremo ad ascoltare è invece Big D Irwin, conosciuto anche come Di Fosco di Irwin Jr., nato nel 32 e scomparso nel 1995, conosciuto però principalmente appunto come Big D Irwin, che è stato un cantante e uno scrittore americano conosciuto soprattutto per la sua hit Swinging on a Star del 1963, in duetto con Little Eva, se gli diamo l'accento americano o inglese, però non vi farò ascoltare questo brano, ne ascolteremo un altro. Di Irwin, è nato ad Harlem, a New York, nel 1954 iniziò la sua carriera formando un gruppo che si chiamava The Pastels, un gruppo che si formò sotto la United States Air Force, dove era arruolato come militare. Formò questo gruppo con Richard Travis, Tony Thomas e Jimmy Willingham. Dopodiché si spostò, ritornò a New York e poi a Washington, incidendo per diverse etichette discografiche, tra cui probabilmente la maggiore per cui lavorò, una grandissima etichetta che ha sfornato tantissimi brani, è la Chess Records. Di Big D. Irwin ci andiamo ad ascoltare And Heaven Was Here. Questo era Big D. Irwin con Heaven Was Here. Dopo il lentone romanticone di questa puntata, torno ad alzare il ritmo e con Linda Jones è inevitabile che ciò accada. Linda Jones è nata nel 44 e scomparsa nel 72 ed è stata una cantante soul con uno stile molto molto forte, decisamente influenzato dalla musica gospel. Jones nacque a Newark nel New Jersey e iniziò come tanti altri a cantare in chiesa, in particolare nel gruppo evangelico proprio della sua famiglia, i Jones Singer, fin dall'età di 6 anni. La sua prima registrazione poi è stata Lonely Teardrops sotto il nome di Linda Lane su etichetta Cab nel 1963. Fu poi scoperta in un club locale dal cantautore Jerry Harris, che la introdusse al famoso produttore George Kerr. Incise qualche singolo su Atco Records e Blue Cat Records nel 64, ma non andarono molto molto bene, fino a quando non arrivò a incidere nel 1967 il suo più grande successo, la ballata Hypnotized, raggiungendo il numero 4 nella classifica R&B della Billboard, classifica di riferimento per quanto riguarda le hit statunitensi. Quindi ci andiamo ad ascoltare questa grandissima voce e questo pezzone totale di Linda Jones, che si intitola You Hit Me Like TNT, Linda Jones. You Hit Me Like TNT, Linda Jones. Con il prossimo brano invece ci andiamo ad ascoltare i The Orlons, un gruppo americano R&B e soul formatosi a Philadelphia in Pennsylvania intorno al 1960, un gruppo capace di vincere 3 dischi d'oro per 3 differenti loro singoli. Era un quartetto composto dalla lead singer Rosetta Hightower, da Shirley Berkeley, Marlena Davis e Stephen Caldwell. Prima di diventare i The Orlons, in realtà era un, eccetto appunto Stephen Caldwell, era precedentemente un quintetto composto da sole donne, chiamato Audrey and the Teenies, formatosi intorno appunto al 1950 in una high school, con al loro interno 3 sorelle: Berkeley, Shirley, Jen e Audrey. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo, bellissimo brano dei The Orlons, che si intitola Don't You Want My Lovin'. Tra l'altro, dando un'occhiata al loro orologio, il tempo a nostra disposizione sta, ahimè, per terminare. Quindi questo è l'ultimo brano che ci ascoltiamo per questa puntata. Vi do appuntamento sempre su Radio Wombat mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio Wombat, sempre con Soul Time. a risentirci a mercoledì prossimo. E vi lascio con The Orlons, Don't You Want My Lovin'.